Noi siamo il gruppo del Circo di Mosca, che anche noi abbiamo subito questo blocco e tra l'altro non abbiamo ancora nessun aiuto. Per noi rappresenta un modo di farci vedere, di farci sentire, perché non possiamo più permetterci di stare fermi un'altra volta. Siamo stati fermi per 6 mesi, siamo ripartiti con grandi difficoltà e adesso veramente ci tagliano le gambe in questo modo. Noi avremo bisogno di lavorare. Avete fatto degli investimenti per mettere in sicurezza, per sanificare i luoghi? No, ma non soltanto. Tanto il discorso della sanificazione, che è stato sì una spesa, ma non così eccessiva. Ma la spesa eccessiva è stata che noi dobbiamo preparare pubblicità, l'organizzazione, il suolo pubblico, gli allacciamenti acqua e luce di città in città, e va preparato un mese prima. Da un momento all'altro ti dicono di fermarti e perdi tutto. L'appello sicuramente è di farci lavorare dopo il 24, perché ormai fino al 24 siamo bloccati, è così, però si sente già mormorare di un altro lockdown, eccetera. Per noi è impossibile. E di qualche aiuto, di qualche cosa dal governo, di qualche aiuto al governo, perché purtroppo non siamo sostenuti da nessuno in questo momento. E proprio a questo proposito, cosa pensate del decreto ristori? Ma il decreto ristori dobbiamo vedere quando arrivano, quanto arrivano, com'è la situazione, perché noi essendo stati fermi dei mesi, se loro vanno a calcolare sui mesi che non abbiamo lavorato, praticamente ci tocca nulla. In precedenza avevate ricevuto altri aiuti, altri sussidi? Pochissimo. E non ci sono ancora arrivati i soldi promessi, non ci sono arrivati i soldi di agosto, di marzo, aprile, maggio. Non possiamo vivere così. E c'è chi dice in Italia che questo non è lavoro. No, non è vero che non è lavoro, è una passione che si trasforma in lavoro. Non possiamo e non dobbiamo essere trattati in questa maniera. Da attore abbiamo fatto immensi sacrifici a recitare con gli scudi facciali, le mascherine, una fatica boia, il distanziamento che noi mettiamo a teatro come operatori, il fatto che dobbiamo correre dietro le persone, misurare la temperatura quando entrano a teatro, cose che nei negozi, nei centri commerciali non si vedono ma restano aperti. E allora come possiamo non pensare che questa cosa sia discriminatoria? Non possiamo chiudere dei luoghi sicuri in un'epoca di pandemia e lasciare altri veicolatori di virus che sono molto più rischiosi aperti. Come dicevo, questa è una scuola di teatro che ha dovuto chiudere dopo ingenti sofferenze, perdite economiche, si ritrova a dover richiudere nonostante tutti gli sforzi economici fatti. È inammissibile, siamo qui per portare la nostra voce, sono qui per portare la mia voce sia come attore amatoriale che come operatore dello spettacolo. Ah, per noi è una giornata importantissima, perché la nostra neonata associazione Assodanza Italia, che è un'associazione a tutela delle scuole di danza, che è nata durante il lockdown, esce veramente per la prima volta in maniera ufficiale a rappresentare la situazione delle scuole di danza, che è comunque drammatica, perché noi siamo, come il teatro, il cinema, tra le categorie che sono rimaste assolutamente chiuse. In più, noi siamo una categoria invisibile, che è sempre stata invisibile, che fa parte alcuni del comparto sport, poi ci sono associazioni culturali, APS, eccetera. Siamo frammentati e questo per noi è stato un danno inenarrabile. Quindi riteniamo che sia ora di far sentire la nostra voce. Siamo senza sostentamento, significa che migliaia di ragazzi che venivano presso le nostre strutture adesso non possono fare attività fisica, quindi con tutto l'impatto sociale che questo significa, e significa che tanti lavoratori e le loro famiglie non hanno più un sostentamento. Chiediamo una riforma strutturale di questo settore, poi chiediamo degli aiuti concreti, perché gli aiuti del precedente Cura Italia alcuni non l'hanno ancora neanche ricevuti, quindi certo. Speriamo in meglio. E a proposito di questo, che pensate del decreto ristori? Ma il decreto ristori non è comunque insufficiente, perché una parte di noi non è comunque contemplata, le associazioni culturali non ci sono. Quindi è comunque insufficiente, quindi bisogna che aggiustino veramente il tiro stavolta, perché non è pensabile di lasciare indietro delle persone in una situazione come questa. Si spera una svolta, sarebbe bello, sarebbe fantastico, dubito, però noi ci proviamo. Cosa ha rappresentato per il vostro settore questo nuovo DPCM? Il disastro totale, cioè il segno che se già la cultura contava poco, ora conta ancora meno. Non perché non sia giusto bloccare tutto se c'è bisogno, però o blocchiamo tutti o non blocchiamo nessuno, soprattutto non la cultura, che è essenziale, è fondamentale come il cibo, come l'acqua. Gli aiuti possono essere utili, certo, anzi ne abbiamo bisogno, però non è tanto l'aiuto che serve, è una riforma veramente del settore spettacolo e cultura, perché non è calcolato e non è considerato nemmeno alla pari degli altri paesi europei, quindi siamo veramente in fondo. Siamo qui perché qui ci manca il lavoro, qui noi abbiamo una categoria intera che è un anno che non sta lavorando, un anno intero, perché i sindaci hanno deciso in maniera diversa quella che aveva deciso il Presidente della Regione, che ci aveva dato delle linee guida con le quali sembrava che avessimo potuto lavorare tranquillamente, e invece ci hanno cassato in tutte le fiere, in tutti i comuni, in tutte le sagre, ed è un anno intero che non lavoriamo. Noi abbiamo una categoria che penso che a livello nazionale, parliamo di 30.000 persone, ha la fame, completamente alla fame, e se non troviamo la maniera o di iniziare a lavorare ancora o di avere degli aiuti, ci hanno fatto chiudere, quindi ci devono aiutare. E a proposito di aiuti, avete fiducia? Cosa ne pensate del decreto ristori? Il decreto ristori credo che è l'unica cosa che abbiamo, la speranza, abbiamo solo quella, perché per il resto stiamo perdendo tutto. Per portare avanti un'attività del genere ci sono tutte le tasse a pagare, IVA, INPS, tutte queste cose qui, ma qui è un anno che non si prende una lira e lo Stato vuole che paghiamo quello che... Insomma, continuano a chiederci dei pagamenti, continuano a chiederci, non è possibile, non siamo più in grado di andare avanti in questo modo. Poi tra l'altro si è anche molto investito per la messa in sicurezza di teatri, sale cinematografiche. Immaginare, quindi, sì. È stato un impegno incredibile anche dal punto di vista economico. Poi tutti una volta trovarci senza lavoro, capisco le questioni che forse sono gravi in questo momento, è un momento molto... Però visto che non si riesce a lavorare, devono aiutarci. Proprio per quanto riguarda i cambiamenti strutturali di cui questo settore ha bisogno, cosa pensate della proposta di legge della deputata Gribaudo? Va verso il verso giusto, sarà praticamente come tutte le altre cose da aggiustare, speriamo che ci ascoltino anche lì, daremo il nostro parere.